24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti, lo so che vi siete abituati a questo nuovo orario, stiamo in diretta fino alle 9 col nostro 24 mattino e siamo anche su Twitter, eh? Ci potete seguire, 24 mattino è l'account della trasmissione, Alino Milan sono io. Siamo su Facebook, c'è Alessandro Longoni in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapelli pronto in regia. Insomma, ci siamo quasi tutti nel nostro bar. Eccolo qua, il nostro bar aperto. Già vedo gente che si affolla. Non rispondo a nessuna domanda. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, è gratis, eh? Paga Nicole Minetti. Saluto Matteo Salvini. Ecco qua il primo cliente. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Eurodeputato della Lega. Che fa? Paga il, che cosa paga la Minetti? Il caffè, il cappuccio? Cosa possiamo fare Salvini? Beh, almeno il caffè latte se lo può permettere, penso. Il caffè latte, sì. Saluto anche Bimbo Alieno. È un nostro gradito ritorno. È tornato nel nostro bar. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bimbo Alieno è un blogger economico e finanziario molto seguito su Twitter, al suo blog anche molto molto apprezzato e seguito. Allora, questo oggi ci sono già arrivati tra l'altro i giornali, tra poco sentiamo i titoli. È sicuramente episodico, transeunte, limitato nel tempo, l'esperienza di un governo tecnico. Ma sono sicuro che non sarà limitata nel tempo l'esperienza di una maggiore penetrazione dei saperi, delle competenze professionali nell'attività politica. Matteo Salvini, hai sentito come parla? Transeunte intanto e la penetrazione dei saperi nella politica. Ma al di là della terminologia è l'arroganza, la supponenza e la totale assoluta mancanza di risultati che mi provoca pelle d'oca. Addirittura arroganza. Monti non mi sembra arrogante quando parla. Ha ragione solo lui. Anche se i numeri danno totalmente e completamente torto a qualsiasi sua azione di governo. Ha ragione solo lui, transeuntemente. Beh, però da quant'è che non avevamo un presidente del consiglio che parla così, da quant'è che non c'era un presidente del consiglio che si mette lì, no, al workshop Ambrosetti a Cernobbio e dice transeunte, la penetrazione dei saperi nella politica. Intanto mi sono arrivati i giornali, oggi ce li hanno consegnati presto qui al bar, è tutto Monti bis, Monti no al bis, Monti bis è subito scontro, Monti scarica Casini, leggo sul giornale, vedremo perché. Monti bis, il Corriere sulla corruzione frena l'Italia, Repubblica Monti no al bis, il PD tocca a noi, c'è il Monti bis, attenzione, in arrivo forse, chi lo sa, ma che dobbiamo fare, sospendiamo le elezioni? Matteo, che dobbiamo fare? È questo, va bene che siamo al bar, facciamo chiacchiere da bar e poi parliamo di Milan. C'è quel piccolo passaggio che in democrazia significa confronto con il popolo, anche quando lo stesso Monti parla stizzito dei populismi che si aggirano per l'Europa. Se i popoli chiedono di votare, di potersi confrontare, di dire la loro, va bene che lui è un professore. Però c'è di mezzo quello che fanno in Francia. Però attenzione, perché Monti è quello che ha detto il contrario, se vogliamo, ha detto, cioè non voglio credere che l'Italia non trovi un leader che si fa, per cui si faccia governare questo paese. Non lo voglio credere, ha sempre detto e smentisce, ma no, sono transeunte, quindi il governo tecnico è transeunte, passa, finisce, è un'esperienza unica. Insomma, come dire, cari italiani, vedetevela voi. Certo, abbiamo tracciato una linea, ma adesso ci saranno le elezioni e continua a smentire questa cosa. Ci sta a provare, in realtà, si potrebbe dire così, Salvini? Beh, se tutti i giornali parlano dell'esatto contrario, aveva smentito anche di entrare in politica qualche tempo fa. Aveva detto che l'euro sarebbe stata la nostra salvezza e che la Grecia sarebbe stato il miglior modello di questa salvezza qualche tempo fa, quindi le cose si dicono transeuntemente e poi cambiano. Cambiano, chi lo sa. So, Bimbo Alieno, che è un nostro grande osservatore anche di cose europee, di cose economiche, ormai tanto abbiamo deciso che la politica non conta più niente, no? Mi sembra di capire così, si decide tutto a Bruxelles. Ha detto anche Monti, ha detto l'importante è che chiunque arrivi è che sappia che deve essere una persona insomma, che tutte le decisioni si prendono a Bruxelles, magari con il contributo giustamente anche dell'Italia, insomma siamo a quello. Allora come legge l'idea di un Monti bis? Ma no, che la politica non conti più niente, direi proprio di no, perché se siamo arrivati all'avere la necessità di un governo tecnico è proprio perché c'è stato un fallimento della politica prima. Quindi se non contasse nulla non avrebbe creato le condizioni per avere bisogno di un governo tecnico di salvezza nazionale. E adesso che succede? Semmai l'ambizione di dire è necessario prendere coscienza che per affrontare le sfide globali le decisioni ormai per molta parte vengono prese a Bruxelles, quindi semmai dovremmo avere l'ambizione democratica di contare di più nel voto di Bruxelles. Quindi sono contento che abbiamo un europarlamentare al telefono, perché evidentemente dovremmo sperare di avere degli europarlamentari che hanno più potere, insomma, che da parte nostra ci sia più attenzione a quello che succede a Bruxelles, anche attraverso un'elezione più consapevole degli europarlamentari. Ma se pare che in Italia, non so, Matteo Salvini, è vero che gli italiani vivono l'Europarlamento come un parcheggio in attesa di tornare in Italia, con qualcosa che, ma insomma, chi se ne frega, qui non conta più nulla, ma come si dice, se conta tutto l'Europa, ormai sono i poteri nazionali che non contano nulla. Ma forse in passato, io quando mi sono candidato qualcuno mi ha detto, ma cosa vai a fare, là c'è poco da fare. Chi dice c'è poco da fare a Bruxelles o a Strasburgo non ha capito niente, perché il 72% di quello che poi vota il Parlamento nazionale viene preparato, allestito e stabilito fra Bruxelles e Strasburgo. Quindi noi abbiamo la consapevolezza, è vero, che sull'agricoltura, sulla pesca, sul mercato interno, sui diritti dei consumatori, sul mercato internazionale è Bruxelles che detta la linea. Anche se, devo dirlo, la maggioranza e gli interessi tutelati sono tutt'altro che italiani. La maggioranza ce l'hanno francesi, tedeschi, inglesi, e quindi qualunque provvedimento in tema economico, ahimè, nel 90% dei casi è fatto su misura, e parlo dalle case farmaceutiche fino ad arrivare agli stabilimenti balneari, è fatto su misura, non per noi. Quindi possiamo fare le barricate e combattere, però decidere alla monte, che tanto decide Bruxelles, ad oggi è l'esatto contrario delle necessità dell'impresa italiana. Ma non è che l'ha messa così, come dite, fate quello che volete, tanto poi dopo decidono dall'alto. Comunque vogliamo sentire Bersani, un Bersani combattivo subito di fronte a questo transeunte di Monti e alla possibilità del Monti bis. Tra l'altro poi giustamente qualcuno ci scrive, ma che vuol dire transeunte? Perché vuol dire che passa, caduco, effimero, caduco lo capite meglio. Caduco va bene, effimero va bene, che passa, che finisce, transeunte, che non sta più lì, che non c'è un Monti bis, questo dice Monti, tutti i giornali dicono invece che c'è un Monti bis. Bersani invece si arrabbia, ce l'ha contro i banchieri, ce l'ha contro Moody's e basta, insomma, decide il popolo. Noi garantiremo la stabilità del governo Monti e tuttavia parliamo senza ambiguità della prospettiva delle elezioni, sempre naturalmente che Moody's o Standard & Poor's non ce le aboliscono, sostituendole magari con una consultazione fra banchieri. Eccolo qui, che noi abbiamo la moca nel nostro caffè. Faccio a Bimbo Alieno un caffè, sento che ne ha bisogno, come questa sensazione. Ma allora, Bimbo Alieno, questa idea che Moody's, i banchieri, questa è materia tua, che Monti sia l'emissione delle banche, dei poteri forti, delle agenzie di rating, di Moody's, un po' qua, Salvini l'ha sempre detto, cioè questo è il suo parere. Quanto c'è di vero, quanto c'è di veramente di luogo comune in tutto questo? Ma diciamo che io credo che sicuramente Monti sia una persona che gode di un rispetto sul fronte internazionale e di una credibilità sul piano mercati. Noi avevamo un problema di tipo mercati e quindi evidentemente non è che sia la persona scelta da i poteri forti, ma è la persona che meglio poteva tranquillizzare o comunque portare sul sistema Italia la fiducia da parte degli osservatori internazionali. Capito, ma perché Bersani deve evocare Moody's? Perché ci avviciniamo alle elezioni. Solo per questo, cioè a meno che Moody's non ce le voglia sospendere. Sa quello che l'italiano vuole sentirsi dire, e quindi cioè, se da una parte dice sosteniamo il governo Monti, dall'altra non vogliamo che Moody's ci sospenda le elezioni, insomma si cerca di intercettare un po' tutto, tipicamente preelettorale. A proposito di elezioni, ma Salvini, ma ci credi veramente che Monti sia l'emissione dei poteri forti, delle banche? Dai, questo è un po'... No, se l'accompagna sempre, lo accompagna sempre questa... da quando è stato chiamato a salvare il paese, questa cosa, no? Ma io non sono un complottista, le Torri Gemelle le hanno tirate giù dei pazzi fanatici, non sono stati gli americani a tirarsele giù da sole. Guardo, stando ai risultati, stando ai miliardi di euro di finanziamento alle banche, al Monte dei Paschi di Siena, ai provvedimenti legislativi, ai provvedimenti sul contante, sui bancomat, sulle carte di credito, sicuramente l'azione politica di Monti che arriva da quel mondo, non è un insulto. Quanti banchieri vi stanno ascoltando? Ancora non so. Bimbo Alieno lo conosce molto bene quel mondo, guarda. Però, che ti ascolta bene. Dico, non è un delitto provenire da là, aver lavorato per banche d'affari, ci mancherebbe altro. Dico che stando ai risultati, se dovessi scegliere se l'azione concreta di governo Monti ha aiutato l'impresa, il commercio o le banche, stando ai risultati mi sembra che abbia di molto aiutato le banche. Eccolo lì, Bimbo Alieno. Questo è il dato di fatto. D'altronde viene da lì, quindi che deve fare? No? Ma no, non sono così d'accordo, insomma. Non sono così d'accordo perché penso che noi avevamo dei problemi sull'economia reale determinati da problemi a monte che stavano sulla parte finanziaria, no? Lo spread, una situazione di difficoltà di credito, un credit crunch che si diffondeva nel paese perché le banche a loro volta avevano difficoltà perché incorporavano rischio Italia, eccetera. Quindi un intervento che fosse focalizzato prima sulla finanza mi pare che fosse quasi nelle corde, perché se i problemi dell'economia reale nascevano prevalentemente da ragioni di tipo finanziario, per risolvere i problemi dell'economia reale occorreva aggiustare la parte finanziaria. Poi certo che il meccanismo è lento, e quindi mentre la parte finanziaria si aggiusta, l'economia reale è ancora nella fase in cui si sta rovinando, quindi da fuori si osserva una sorta di forbice che si allarga con la parte finanziaria che migliora e l'economia reale che stenta. Ed ecco che si pensa, Monti. Nella tentazione di pensare che ci si stia dedicando alla finanza dimenticando l'economia reale, ma io credo che, voglio dire, loro per primi sappiano che, per esempio, faccio un esempio banale, l'aumento dell'IVA sia recessivo. E non per niente cercano di provvedimenti per evitare di doverla aumentare. Per ora è stato scongiurato questo aumento, ma non si sa, di tanto in tanto torna anche questo. Intanto però andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi io vorrei introdurre un argomento, perché la Lega vuole lanciare la nuova battaglia sull'euro con un referendum che ridisegni l'eurozona. Maroni ha detto: inizieremo a raccogliere le firme questa settimana, vogliamo andare a votare l'anno prossimo contestualmente con le politiche, ridisegnare l'eurozona non più per stati come adesso, ma per regioni. Per regioni, che vuol dire concretamente le regioni che stanno dentro alcuni parametri all'interno degli stati, tradotto in Italia, le regioni del nord stiano nell'eurozona, i terroni a casa. Chi di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum, ma non basta, nel nostro paese è in atto una trasformazione legislativa che a breve vedrà nascere 10 città. È già entrato nella storia Matteo Salvini, il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Che dici, lui ci sta nell'eurozona? Dovrebbe stare. È transeunte. Vabbè, tutti siamo transeunte, sei per questo. Ah, dal primo all'ultimo siamo nelle mani del Signore, questo è fuori dubbio. Vabbè, ma allora no, ho giocato su questo, è già diventato un tormentone, no? La pronuncia del World Urban Forum da parte del presidente della provincia di Napoli. Non è a risentire, perché come, cioè, è una roba incredibile, a momenti si picchia la testa contro il microfono per... Che dice? World Urban Forum. Vabbè, insomma, no, Matteo Salvini. Allora, io l'ho messa ovviamente in modo molto provocatorio. Però la Lega vuol fare questo referendum fuori dall'eurozona, cioè ridisegnare, come scrisse il Financial Times, no? L'eurozona in base a chi sta dentro alcuni parametri e chi sta fuori invece sta fuori, senza guardare i confini di stati, ma di regioni. Non so, ci sono delle regioni del nord produttive che stanno dentro i parametri eurozona, quelle stiano nell'eurozona, e fino a Roma più o meno. Il Financial Times metteva lì, e gli altri fuori, ma che vi siete ammattiti? O è un tentativo per fare la secessione in maniera morbida o per referendum? No, A, non vogliamo complicare la vita a nessuno, B, a differenza del passato, vediamo di fare meno proclami e cose più concrete. Come Lega chiederemo le firme della gente su due proposte. A, che si voti su quello che è Europa. La Costituzione italiana impedisce per Costituzione degli italiani di votare qualsiasi materia legata ai trattati internazionali. Votano ovunque all'estero, in Francia, in Germania, in Austria, in Gran Bretagna, in Svizzera fanno referendum su temi economici ogni mese. Bene, noi chiediamo agli italiani se sarebbero d'accordo a votare anch'essi sull'euro, sulla Turchia, sull'allargamento, sulle tematiche europee, internazionali e di bilancio. Penso che sarebbe democratico il consenso, poi Bimbo Alieno avrebbe la sua posizione, Matteo Salvini un'altra e l'imprenditore di Treviso una terza ancora. I dati, chi fa impresa sa che se hai i libri a posto vai avanti a lavorare, se hai i libri fuori posto vai in tribunale. Quindi che a livello europeo l'euro sia una palla al piede per qualcuno e un'opportunità per altri è lì da vedere, che le economie dei territori italiani avrebbero bisogno di diverse spinte, perché no, anche di monete parallele, più di uno studio economico dimostrano. Ah, le monete parallele. No, perché qui nel nostro bar è gratis. No, paga Nicol Minetti, quindi è gratis il caffè. Ma siamo come a Livigno, dove la benzina costa un euro. Però ma... tanti casi in Europa, in Francia, in Germania, in Svizzera, di una forma monetaria parallela, sì, sì, sì. Che non è il taller o lo scudo, non torniamo a girare a cavallo. No, è chiaro. Per aiutare l'economia. No, perché tu ce lo pagheresti come? Dovendo pagare, ce lo pagheresti in euro, in lire? No, a credito. Paga quello che arriva dopo di me in Italia. Ah, Paga il prossimo. No, questa idea di ridisegnare l'eurozona, Bimbo Alieno, è una cosa surreale, è una fantasia, oppure è un qualcosa su cui la Lega potrebbe avere anche delle basi giuridiche, anche delle basi per chiamare al voto in un referendum le persone? Basi giuridiche onestamente non saprei, ma dal punto di vista così meramente di colore mi sembra che forse ci siano idee un po' confuse, perché fino a ieri si diceva che l'euro è una fregatura, adesso si tenta di lasciare la fregatura al nord e di portare l'innovazione positiva al sud. No? Magari fanno sul serio, no? Che è di colore, cioè Maroni ha detto presentiamo un referendum, raccolta di firme, cioè, mica è una cosa come di colore, altre cose la Lega le ha fatte, cioè una cosa molto molto seria, almeno parte in maniera molto seria. Non ci credo. Non lo so, rimango abbastanza perplesso. Ma su che basi lo fate, Salvini? Su che basi lo fate questa idea di poter... Chiediamo agli italiani se sono d'accordo o meno. Gli italiani possono dire chi se ne frega, va benissimo così, punto. Se sarebbero d'accordo nel cambiare quell'articolo della Costituzione che impedisce, cioè proprio vieta per legge agli italiani di votare su tematiche europee e internazionali. Qui magari gli italiani sono stracontenti dell'euro. Ma io so che c'è Scusate, ma va bene, d'accordo. Votare sulle dinamiche europee, al di là dell'esempio Svizzera, che è una democrazia diretta, non è una democrazia indiretta, e quindi comunque è un esempio diverso dal nostro, ma sugli altri esempi certamente. No, ma perché io ho letto proprio una domanda, Salvini, ho letto una domanda proprio sul riscrivere l'eurozona, cioè questo è proprio riscriverla. Assolutamente, ma a Bruxelles di questo si sta discutendo, a Bruxelles ci vado martedì mattina. E a Bruxelles di questo, oltre alle tematiche contingenti di tutti i giorni, agli aiuti per le zone terremotate, alle compartecipazioni con l'India, ai dazi per alcuni prodotti, a Bruxelles si sta anche ridiscutendo la formazione di un'Europa troppo grossa, troppo in fretta, diceva Giuseppe Stein, che è stato uno dei fondatori. Un'Europa a 27 non riesce a mettere d'accordo gli interessi e normative che partono dall'Estonia e arrivano a Rimini. D'altronde Maroni ha detto appunto da questa settimana inizieremo a raccogliere firme. Intanto io vi ringrazio, il nostro bar per il momento socchiude, ma rimaniamo aperti. Grazie a Matteo Salvini della Lega, grazie a Bimbo Alieno che ritroveremo, blogger economico e finanziario, su Twitter lo trovate così ovviamente, Bimbo Alieno. Potete diventare suoi followers. E allora noi ci fermiamo al giornale radio, poi rientreremo alle 7:20 con la lettura dei giornali e a tra poco. Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. È sicuramente episodico, transeunte, limitato nel tempo l'esperienza di un governo tecnico. Urban Forum. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era lato più bello, un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. E allora eccoci qua alle 7:21 minuti, ancora ben ritrovati cari ascoltatori, siamo in diretta ormai dalle 6:30, dovresti saperlo, ma per i ritardatari eccoci qua, siamo pronti alla lettura dei quotidiani. Vi ricordo che oggi avremo ospite il governatore della Toscana Enrico Rossi, questo alle 8:20 per parlare anche di attualità politica. Visto che lui è rappresentante del Partito Democratico, parleremo poi della vicenda della democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle, le polemiche che ci sono state dopo un'intervista fuori onda a un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a Giovanni Favia, le polemiche, lui che ha detto dipende tutto da Casaleggio, questo guru che controllerebbe Beppe Grillo e farebbe, detterebbe un po' l'agenda politica a tutto il movimento, di questo parleremo più avanti alle 8:30. Ebbene, che dire? Allora andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali invece che trovate in edicola. È lunedì 10 settembre, intanto uno sguardo ai titoli, a parte il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì che apre su IMU senza freni per imprese e affitti, insomma non una buona notizia. Tutti gli altri giornali aprono più o meno sulla questione centrale della politica attuale, cioè l'idea di un Monti bis, di un governo Monti bis. Allora, vediamo i titoli intanto. Il Corriere della Sera, così la corruzione frena l'Italia, mentre Repubblica, Monti no al bis, il PD tocca a noi, La Stampa, Monti bis, è subito scontro, Il Messaggero, partiti divisi sul Monti bis, Il Giornale, Monti scarica Casini, perché lui, il leader UDC l'ha appoggiato, ma lui lo gela, mi fece fuori dalla Commissione Europea per piazzare Buttiglione. Il Secolo XIX, Monti bis, l'altolà di Bersani, e infatti sull'Unità il titolo è questo, decide l'Italia, non le banche, questo è il virgolettato di Pierluigi Bersani che ieri ha chiuso la festa del Partito Democratico. Insomma, una vicenda che era nata anche con un sondaggio Radio Core secondo cui l'80% delle persone legate al mondo della finanza, delle banche, si erano detti favorevoli a un Monti bis, e da lì è deflagrata in questo weekend anche di lavori a Cernobbio questa notizia e poi le polemiche e l'ipotesi di un Monti bis. Ma tra poco lo vedremo. Prima voglio partire da una storia che è un po' un paradigma dell'Italia. La trovate raccontata in prima pagina di Repubblica. Io, primario ben pagato per non fare niente. Fabio Tonacci racconta la storia di Domenico Scopelliti, 51 anni, chirurgo maxillo facciale di fama internazionale, ha partecipato anche a 38 missioni umanitarie all'estero, che racconta così la sua storia, un viaggio di sola andata nelle pieghe dell'assurdo burocratico, dove accade che uno dei più bravi chirurghi d'Italia da 18 mesi venga pagato, e bene, per non operare. Domenico Scopelliti si sente quasi in colpa quando scandisce la cifra. Il sistema sanitario dice mi paga 5.000 euro netti al mese. per stare ogni giorno 6 ore e 20 nella clinica di Villa Betania senza fare niente. Mi hanno tolto il reparto nonostante il Tribunale del Lavoro abbia ordinato il mio reintegro, la Regione ha bloccato l'assunzione di 2 chirurghi necessari alla riapertura dell'ambulatorio e l'unica operazione che faccio è quella di timbrare il cartellino. I miei pazienti li opero gratis nei giorni liberi. Siamo alla Regione Lazio, è una vicenda intricata anche dal punto di vista burocratico. Quando la Regione Lazio ha decretato la chiusura del reparto di chirurgia maxillofacciale di Villa Betania, a quel punto scopelliti con la sua equipe, 3 chirurghi, un odontoiatra, hanno 350 pazienti in lista d'attesa, altri 500 in corso di cura e dicono: beh, pensavamo ci avrebbero spostato all'ospedale San Camillo, dove c'era un posto da primario vacante, siamo dipendenti pubblici, in un modo o in un altro pensavamo ci avrebbero fatto lavorare. E invece si sbagliava e nasce questo inghippo burocratico con inattività per un anno. Poi lo stesso Scopelliti si autodenuncia al Tribunale del Lavoro chiedendo di poter tornare a operare con la sua equipe. Il Tribunale del Lavoro di Roma ordina alla ASL di il reintegro che però non avviene perché la Regione Lazio, dice Scopelliti, ha imposto all'ASL di non procedere alle 2 assunzioni necessarie per riaprire il reparto e quindi Scopelliti non può ancora lavorare. Racconta la sua storia, la trovate poi a un'intera pagina su Repubblica, pagina 20, io primario di fama, pagato da 2 anni, ripeto, 5.000 euro al mese netti per non fare nulla e per non lavorare. Voglio andare invece sul Sole 24 Ore, dove c'è una pagina molto interessante per tutte le persone che sono separate e riguarda un tema che porta poi a diatribe, a scontri, a discussioni, a ricorsi anche ai tribunali. La questione delle spese extra per i figli di genitori separati. Il divorzio, il decalogo per le spese extra dei figli. Lo trovate nella pagina di norme e tributi a cura di Carmelo Padalino. Chi paga le spese extra per i figli? Le sentenze di separazione e divorzio stabiliscono che il genitore non collocatario dei figli deve contribuire al loro mantenimento, oltre che con un assegno mensile, anche coprendo il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e di svago. Sì, ma il problema è: quali sono queste spese straordinarie? Cioè, che cosa rientra in questa categoria spese straordinarie? Beh, su questo c'è un po' di confusione, perché ci si deve rifare alla giurisprudenza con casi finiti poi in Corte di Cassazione che ha stabilito che cosa è spesa straordinaria e cosa no. Per esempio, ci sono alcuni esempi concreti. Non è straordinaria la spesa per la babysitter se il genitore stabilmente convivente con i figli durante la convivenza coniugale vi faceva abitualmente ricorso a causa dei propri impegni lavorativi. Al contrario, invece, è straordinaria la spesa per la babysitter se è stata utilizzata per la saltuaria necessità del genitore di recarsi in una località distante dalla casa familiare. Oppure le spese universitarie. La Suprema Corte ha affermato in alcune occasioni che si tratta di spese straordinarie per la loro entità e variabilità, in altre occasioni che le maggiori esigenze del figlio legate alla sua frequenza degli studi universitari costituiscono i sopravvenuti giustificati motivi che legittimano un aumento dell'assegno di mantenimento. Insomma, c'è un po' una gran confusione, tanto che sempre sul Sole 24 Ore si racconta che alcuni tribunali, tra questi Bolzano, hanno deciso di fare un vero e proprio catalogo. Un catalogo su quelle che debbono essere considerate spese straordinarie e no. A Bolzano sono considerate straordinarie le spese per l'apparecchio ortodontico, per gli occhiali da vista, per la visita presso un medico specialistico privato, se era stato già consultato quando la famiglia era unita, per lo ski pass, una spesa straordinaria, se il figlio ha sempre ricevuto uno ski pass. Vabbè, a Bolzano poi, insomma, è un tema caldo. Per le lezioni private, per la patente di guida, per il viaggio per la maturità, queste sono spese straordinarie, mentre sono spese ordinarie quelle per il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, materiale scolastico di inizio anno, la mensa, le attività del tempo libero organizzate dal padre o dalla madre nel fine settimana di propria competenza. Ma anche a Bassano del Grappa, Bologna, Bergamo e Pordenone i tribunali cercano di darsi un catalogo, un elenco di quelle che devono rientrare in spese ordinarie e straordinarie. Insomma, se volete, è una pagina secondo me molto utile per tutti i genitori separati con figli, ce ne sono tanti che sono lì a questionare ovviamente su quelle che siano le spese ordinarie o straordinarie per i propri figli. In ogni caso, qui ci fermiamo e poi ripartiamo dal Monti bis. Allora, lo volete un bis Monti e poi magari un tre Monti? Battutaccia che ho messo già anche su Twitter, lì potete seguirmi tra l'altro, Alino Milan, se volete diventare follower e poi che dire. La lettura dei giornali, se vi volete concentrare sulla politica, è tutta declinata su una domanda, un'unica domanda. Allora, ci sarà davvero un Monti bis, passando ovviamente attraverso le elezioni, ma poi la possibilità di avere ancora un Mario Monti rispetto alla politica? Intanto io giro i giornali, come qua sentite. Beh, tutti i quotidiani si interrogano su questo tema. Per la verità, ieri Mario Monti ha detto: non voglio credere che un grande paese democratico come l'Italia non riesca a eleggere un leader che la governi. Qualcun altro ha fatto notare che in realtà ha anche aggiunto: certo, se dopo le elezioni non c'è una maggioranza, puntini puntini. In realtà poi ha usato questa espressione, no, che dalle 6:30 facciamo risentire: il governo tecnico è transeunte, no? Transeunte, cari italiani, avete sentito come parla il Presidente del Consiglio? È transeunte, dunque finisce, passa. L'unico che si è schierato in maniera aperta per un Monti bis è Casini. Dopo Monti c'è Monti, così ha detto Casini. In ogni caso, basta vedere una carrellata di titoli. Governo tecnico, un episodio, così l'ha definito, un leader da eleggere ci sarà, a pagina 2 del Corriere della Sera, mentre a pagina 3 Casini, Monti bis, mentre Alfano invece del PDL non ci sta, allora si candidi. Il più duro però è stato proprio Bersani. Ieri, chiudendo la festa del Partito Democratico a Reggio Emilia, Bersani invece ha detto questa frase: decideranno gli italiani, deciderà il popolo, a meno che Moody's, magari volendo fare una consultazione tra banchieri, voglia decidere chi sarà a governare l'Italia. Infatti l'Unità, che mette tra l'altro a pagina 3 tutto l'intervento di Pierluigi Bersani ieri, decide l'Italia, non le banche, questo è il titolo di apertura. Petto in fuori, racconta anche a pagina 5 il Corriere della Sera su Bersani: siamo più forti di quanto pensiamo, siamo un partito senza padroni, via le paure, siamo pronti a governare il paese. La sensazione, racconta Francesco Alberti, è che da qui al voto ogni angolo potrebbe nascondere un agguato. Si muoveranno forze antiche o travestite di nuovo per tagliarci la strada, dice Bersani. Il clima è pesante, non risparmia nemmeno il presidente Napolitano. Un Bersani che però dice: il prossimo governo lo decideranno solo gli italiani, non i banchieri o qualche agenzia di rating. Come detto, il più invece chiaro a fare un endorsement per Monti è Casini, che ha lanciato questa sua nuova avventura, nella quale per esempio ha fatto una cosa già importante: ha tolto il nome Casini e ha messo Italia nel simbolo dell'UDC. Tra l'altro leggevo nel weekend, scatenando pare le ire di Silvio Berlusconi, che stava pensando a rilanciare o un Forza Italia o un Grande Italia, in qualche modo lo ha anticipato sicuramente Casini su questo e dunque ha bruciato un po' questa possibilità. Ebbene, come detto, Casini, Monti bis, questo è il titolo a pagina 3 del Corriere della Sera. Chi attacca moltissimo questa iniziativa di Casini è Il Giornale. Sentite il titolo di apertura: Monti scarica Casini. C'è anche l'editoriale di Alessandro Sallusti che inizia così: Giuseppe Pisanu, detto Beppe, Cirino Pomicino, Ciriaco De Mita. Ah, il nostro amico Ciriaco De Mita. Insieme fanno 230 anni di età, dei quali 130 passati in Parlamento. In carriera tutti e tre, chi più chi meno, sono finiti in guai giudiziari e avevano ruoli importanti secondo quando i partiti accumulavano tangenti e lo Stato debito pubblico a gogo. Questi politici di professione, lavori zero, che hanno avuto stipendi, privilegi, pensioni che li pongono nei top ten della casta, ebbene, li ha ruolati Casini e li ha voluti ieri in prima fila alla chiusura del congresso fondante di Italia, il nuovo partito che si pone in alternativa alla politica tradizionale. Non siamo su scherzi a parte, così Alessandro Sallusti. Ma guardate, se uno poi mette insieme che Berlusconi è molto vicino al giornale, Berlusconi pare si sia molto adombrato per l'utilizzo di Italia, beh, legge le prime 4-5 pagine del giornale, sono tutte un attacco nei confronti della nuova creatura di Casini, Italia. Addirittura un attacco, qualcuno rispolvererà sicuramente l'idea del metodo boffo. Guardate che cosa succede a pagina 4. Sapete che Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, è andata sul palco a Chianciano, appunto, e non è che abbia detto scendo in politica, però ha detto, effettivamente ha fatto capire che questa nuova avventura potrebbe piacerle. E per molti potrebbe essere il primo nome da schierare, un nome nuovo per la politica. E guardate il giornale cosa fa, pagina 4, viviseziona l'abbigliamento di Emma Marcegaglia, cioè mette la foto e fa un'intera pagina dal titolo «Quanti scivoloni sul look, a Emma serve un badante». Con la foto di Emma Marcegaglia, come si è presentata, con la cintura tristanzuola, i jeans, secondo il giornale, troppo larghi in fondo e troppo lunghi e malconci, le scarpe, sandali con zeppa in sughero da spiaggia o da aperitivo, lo smalto, c'è anche la critica sul colore dello smalto, sull'uso degli orecchini, della tipologia di orecchini. Ecco, questo succede a pagina 4 del giornale, lo trovate. In ogni caso, Monti bis, la possibilità di un Monti bis, su questo c'è anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firma Dario Di Vico. Decideranno gli elettori, questo è il titolo. Si è aperto in questi giorni, in contemporanea al meeting di Cernobbio, un confuso dibattito sull'eventualità di ricorrere a un governo Monti bis dopo le elezioni, scrive Di Vico. Detto che la nostra Costituzione non assegna ancora alle riunioni delle grandi élite italiane il potere di indicare il capo di un governo, per di più post-elettorale, sostenere oggi il Monti bis è un errore. Nell'immediato non ci aiuta nel cammino di risanamento e riforma intrapreso e soprattutto introduce un elemento di ambiguità nel rapporto tra istituzione e paese reale. Una parte di coloro che sostengono l'idea del Monti bis è animata dalla sincera volontà di segnare la continuità, di rassicurare Bruxelles, Berlino e i mercati che il cammino avviato dal governo tecnico non sarà interrotto, ma la sacrosanta esigenza di rispettare le compatibilità europee, di imporci all'attenzione come un paese coerente, non vale il rischio di aprire una frattura nella tradizione democratica italiana. E infatti Dario Di Vico ricorda la frase detta da Monti: non posso credere che un paese non sia in grado di esprimere un leader politico capace di governarlo. Tra l'altro, a proposito di Casini, molti ricordano come mentre Casini dice dopo Monti c'è Monti, Monti abbia invece ricordato quella volta in cui nel 1994 Monti fu ostacolato dal veto dell'UDC per diventare commissario europeo, perché, ha raccontato Monti, Berlusconi lo voleva ma l'UDC fece pressioni per mettere Buttiglione. Ecco, in questo raccontare in maniera sobria ma anche gelida questo episodio, qualcuno ci legge come il giornale un, come dire, uno scaricamento da parte di Monti nei confronti dell'endorsement di Casini. Insomma, avete capito, siamo a questo livello di dibattito, Monti bis o non Monti bis. Intanto Berlusconi se la gode dove? In Kenya. La notizia è data solo dal Corriere della Sera, pagina 6. Berlusconi prepara la sua strategia e si rilassa in Kenya. La domanda era del weekend: dove è finito Berlusconi? In Sardegna, Villa Certosa? No, non era dato di qua, era dato di là, eccetera. Berlusconi, scrive Tommaso Labate a pagina 6 del Corriere, è a Malindi insieme a Flavio Briatore in Kenya a rilassarsi qualche giorno. Tra l'altro rilancia l'idea Tommaso Labate, aprirà anche un billionaire? Un Berlusconi che vuole rilanciare una strategia, sta pensando soprattutto a qualcosa sulla riforma elettorale. Anche per Il Giornale, Berlusconi è ancora incerto con Adalberto Signore a pagina 5. Adalberto Signore racconta: chissà se torna, cioè nel senso se ritorna in campo. Il Cavaliere congela il ritorno, deciderà a ottobre e dice è opportunista. Questo è il virgolettato attribuito a Berlusconi: opportunista chi tira la giacchetta a Monti, così lo danneggia. A proposito di Berlusconi, c'è un'altra notizia sul secolo XIX, secondo la quale, per la verità si riprende l'Unione Sarda di ieri, Berlusconi, secondo alcuni rumors, avrebbe addirittura venduto già Villa Certosa, no? La celebre villa in Sardegna. Villa Certosa, spunta lo sceicco. Sul secolo XIX c'è anche il nome. È il nome di Al Nahyan, famiglia regnante di Abu Dhabi. La persona è lo sceicco Khalifa bin Zayed, con un patrimonio da 25 miliardi di dollari. Una persona schiva e poco incline a esibire il lusso. Uomo di 62 anni, avrebbe già concluso la trattativa. Cioè avrebbe già acquistato per 470 milioni di euro Villa Certosa. Ovviamente è tutto, sono tutti pettegolezzi. Briatore viene sentito e dice: boh, strano, il presidente ama quella casa, non lo so, non mi pare. Rumors, avrebbe venduto 470 milioni, secondo alcuni affari già fatto, Villa Certosa agli sceicchi, tanto che qualcun altro lancia un'altra idea. La prossima cosa che vende agli sceicchi è il Milan. Allora, venderà il Milan? Chi lo sa? Berlusconi, dopo aver venduto, secondo alcuni giornali, o essere in procinto di vendere Villa Certosa, staremo a vedere. Intanto noi parleremo alle 8.30 invece della vicenda Beppe Grillo, le polemiche ancora oggi sui giornali, Grillo-Favia, battaglia sulla rete, questo è il titolo a pagina 15 del Corriere della Sera. C'è anche, spunta un'altra dissidente, tra virgolette, che attacca Casaleggio, questo che sarebbe il guru della Casaleggio Associati, che deciderebbe tutta la strategia di Beppe Grillo, vuole governarci come un giochino sul web. Ma insomma c'è un dibattito tra i vari grillini a dire Favi ha ragione, c'è chi dice invece Favi ha torto, è una rivista e vuole solo puntare al proprio futuro politico, magari anche altrove. L'Unità mette insieme Grillo e la Lega alleati via l'euro, c'è il tema del referendum per riscrivere l'eurozona che vuole la Lega. Maroni annuncia: da questa settimana partiremo con la raccolta delle firme, cioè voler riscrivere l'eurozona non più in base agli stati, ma far inglobare nell'eurozona non tanto gli stati quanto le regioni che mantengono alcuni parametri economici e finanziari, in caso italiano ovviamente le regioni del nord, e poi invece non accettare nell'eurozona quelle regioni del sud che non rientrano in alcuni parametri. Maroni ha lanciato l'idea di fare un referendum su questo e chiede che gli italiani votino, se verranno raccolte le firme, nel 2013, contestualmente con le elezioni politiche. Insomma, questa è la politica oggi sui giornali. Invece, se volete una bella notizia, se siete proprietari di casa o se siete imprese, sulla questione dell'IMU, il Sole 24 Ore fa sapere, come era prevedibile, che 8 comuni su 10 più o meno hanno alzato, quasi tutti dunque, il livello base della nuova imposta municipale sugli immobili. Il dato medio arriva allo 0,95% rispetto allo 0,76% di prima. IMU senza freni per imprese e affitti, locazioni libere con aliquota al top da Torino a Napoli, poche le agevolazioni, è tutto uno studio ovviamente ancora in fieri perché i comuni possono decidere ancora fino a ottobre. Ma solo la prima casa si salva dalla super IMU, questo è il titolo dell'inchiesta che trovate a pagina 3. Il 40% dei capoluoghi aumenta l'aliquota, il prelevo medio si ferma allo 0,44%, una stangata sugli affitti. E, insomma, difficile pensare che non sarebbe successo. 8 comuni su 10 hanno alzato il livello base della nuova imposta municipale sugli immobili e potete studiarlo città per città, appunto, sul Sole 24 Ore di oggi. Così come sul Sole 24 Ore trovate una interessante Vademecum per la sanatoria degli immigrati. Immigrati, Milano guida la sanatoria, questo è il titolo a pagina 7. Il 60% delle istanze arriverà da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si apre dunque la finestra per i lavoratori extracomunitari in cerca di regolarizzazione. Da sabato 15 settembre a lunedì 15 ottobre i datori che intendono mettere a posto i loro dipendenti senza permesso di soggiorno potranno presentare la cosiddetta dichiarazione di emersione. E dunque su questo trovate appunto sul Sole 24 Ore anche un vademecum interessante su come comportarsi. Intanto la cronaca è un po' cronaca nera, insomma non ho trovato cose molto stimolanti. Le cose più stimolanti sono la polemica che c'è sempre al Festival del Cinema di Venezia, una volta conclusa, con Marco Bellocchio, regista di Bella Addormentata, bocciato a Venezia. Bocciato, non ha vinto un altro, no? Quando si fa una competizione si può vincere o si può anche perdere. Ebbene, Marco Bellocchio fa un'intervista al Corriere della Sera rispondendo alle critiche: ma che film troppo italiano, sono idiozie, non voglio lezioni. Sentite quando un regista perde che cosa dice. Si dice di lei che i nostri film, o che meglio, che i film italiani sarebbero poco capaci di varcare i confini, troppo autoreferenziali. È un giudizio idiota, risponde Bellocchio. Non vuol dire niente, di questa imbecillità ne ho piene le scatole. Da un giurato mi aspetterei altro, che faccia la fatica di spiegare le ragioni perché un film non gli è piaciuto. Il mio dubbio è che chi dice queste cose viene da una cultura che parla inglese, poco sensibile alle sfumature di altri linguaggi. Il mio film è conteso da tutti i grandi festival internazionali, lo porterò a Toronto, a New York, a Rio, a Mosca, a Tokyo. E insomma racconta così e poi dice: però una cosa l'ho capita, non parteciperò mai, mai più a un festival del cinema. Ecco, questo succede quando uno non vince, cosa che può capitare se partecipi a un festival del cinema. L'altra notizia interessante che seguirà molti appassionati è questa: è tornato Vasco Rossi e giustamente dopo che aveva detto non farò più concerti, dopo che è stato colpito da una grave depressione, dopo che per un po' di mesi ha comunicato soprattutto su Facebook eccetera, è tornato, certo in una discoteca, non riempiendo gli stadi, in una discoteca in provincia di Taranto. Emozione rock, Vasco è tornato, così sul Quotidiano Nazionale una pagina, ma anche sul Corriere della Sera: Vasco torna, incanta, di nuovo in scena, ma ho avuto paura, la paura di tornare, di Vasco Rossi, di tornare sulle scene, giustamente viene segnalata nelle pagine degli spettacoli sui giornali. E poi voglio chiudere con che cosa? Un episodio che è successo a Milano e riguarda un giocatore del Milan. Si tratta di Mbaye Niang, 17 anni, quindi avendo 17 anni, come potete immaginare, non ha la patente. Era in macchina con Traoré, giocatore, compagno di squadra, con un piccolo particolare: era lui al volante, cioè Mbaye Niang era al volante a 17 anni senza patente, è stato fermato dai vigili urbani. È un trafiletto sulla Gazzetta dello Sport, ma la notizia sicuramente emergerà perché è gustosa. L'hanno beccato e lui che ha detto: ma no, ma io non sono Mbaye Niang, sono Traoré. Cioè diceva di essere quello che stava dietro e in pratica ha cercato di fare finta di non essere lui, ha cercato di spacciarsi per il compagno di squadra che gli stava a fianco. Niang beccato a Milano, guida senza patente, questo è il neo acquisto del Milan. Dopo due giorni si è fatto beccare un po' alla una balotellata, potremmo dire, no? Allora tanto voleva comprare Balotelli, che certamente è più forte. Siamo qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare un po' di politica, lo facciamo con il governatore della regione Toscana, Enrico Rossi. Buongiorno e ben ritrovato, Presidente. Buongiorno. Senta, il tema politico del giorno, lei lo sa, è quello del Monti Bis. Ormai ci si esercita e ci si interroga su questo. Bersani dice deve decidere il popolo e non certo le banche. Lei come la prenderebbe un eventuale elezione, ma poi Monti Bis? Beh, insomma, Monti credo che abbia fatto cose importanti per il paese, anche se non sempre io le ho condivise anche se condizionate dal PDL. Penso che sì, è giusto che si vada alle elezioni, perché questa scadenza è una scadenza importante per tutti i paesi democratici, e poi è normale che gli schieramenti abbiano un leader e che quindi chi vince dei due schieramenti esprima poi anche la guida del governo. Io credo che questo, insomma, appartiene un po' alla fisiologia della democrazia, ecco. E quindi Monti va bene, vedo è sostenuto dal centro, quindi vuol dire che è sostenuto da una forza politica. Se il centro dovesse prendere tanti voti è evidente che avrebbe diritto di indicarlo, e probabilmente potrebbe aspettare a Monti di guidare il governo. Se invece nell'ipotesi di un governo di sinistra-centro, insomma il PD e forze progressiste e moderati, la sinistra avesse più voti, è giusto che sia Bersani a guidarlo. Io così la vedo, insomma, mi sembra anche un ragionamento molto lineare. Che, che sia Bersani se sarà Bersani. Ma adesso questo, quello ci arriviamo. Certo. No, quindi, questo va deciso. Quindi lei dice va bene Monti, ma se è tutto un discorso politico, cioè se. Ma bisogna che ritorni un po' paese alla normalità della politica. Abbiamo avuto una fase straordinaria in cui tutte le forze politiche responsabili si sono fatte carico di sostenere un governo tecnico, un governo d'emergenza, poi dall'emergenza in qualche modo bisogna uscire. Questo non significa ovviamente rinnegare quello che ha fatto Monti. Stamani sentivo anche la ministra Severino impegnata sulla legge anticorruzione, però significa ritornare ad una normalità politica che forse in questo momento oggettivamente è un po' sospesa. Lei dice hanno fatto cose buone, ma anche lei le ha anche criticati. L'ultima è stata il decreto sanità, su questo immagino che ci sia una boccia di una stroncatura, no? No, non è una stroncatura, è il metodo che ci ha un po', diciamo, urtato, perché non si possono fare sempre decreti d'urgenza, insomma, su una materia come questa. Secondo, noi condividiamo peraltro molti aspetti contenuti nel decreto. Secondo, attenzione a non dare troppe illusioni, perché ad esempio sul tema come quello dei centri di cure primarie, i medici 24 ore per 7 giorni alla settimana. Quanto costa? Io l'ho fatto in Toscana, bisogna spendere, ecco. Diciamo che per fare un contratto che costruisse una ventina di questi centri, noi abbiamo dovuto spendere qualche decina di milioni, ecco, non è che sono cose che vengono automaticamente. Ma come, dai tecnici dovrebbe essere, no, tutti precisi, e dice invece non hanno fatto i conti della serva? Ma guardi, a volte io non vedo molta differenza, insomma, tra tecnici e politica. Sicuramente questo governo di buono è che si è impegnato a fare una serie di riforme in tempi molto rapidi, questo va sicuramente a merito del governo, in una situazione però si è sospesa anche, diciamo, la concertazione, il confronto con le parti sociali, in cui anche il Parlamento è stato sostanzialmente blindato. Non è detto che siano sempre uscite le cose migliori, anche sulla giusta riforma, giusta e dolorosissima riforma delle pensioni, poi scopriamo che ci sono gli esodati, ecco. Sì. Poi magari andiamo a vedere che anche tutte le leggi manifesto che sono state fatte su liberalizzazioni, privatizzazioni, poi devono essere attuate. Ad esempio una regione come la Toscana in tema di liberalizzazione e privatizzazioni è molto avanti, ecco, contrariamente a quello che si pensa. E tuttavia io so che per farle ci vogliono tempo, ci vuole, insomma, la fatica del lavoro, non basta annunciare. Così come appunto per le cure primarie va benissimo, noi in Toscana abbiamo il 70% di medici che sono in associazione, una parte di questi appunto sono in questi centri di cure primarie molto, molto all'avanguardia, però poi occorrono i soldi, invece finanziamenti per farla. Sono stati tolti. Cose importanti, ma anche da correggere, da rivedere, da mettere a posto. C'è poi il tema, invece, all'interno del Partito Democratico, lei ha detto, se vince il centro-sinistra sarà Bersani. Rossi è un bersaniano, si sa. C'è la questione Renzi. No, vabbè, nel senso che lei immagino alle primarie. Quando ci saranno le primarie, lei voterà Bersani. Non mi sembra. Ma non era tanto un lapsus il mio, diciamo. Lo dico proprio senza... Cioè lei crede che vincerà Bersani le primarie? Credo che vincerà Bersani e credo però, si ricorda che stavamo facendo il ragionamento sulla presidenza del Consiglio, sì. Ma credo che l'unico leader che la sinistra può esprimere è in grado di avere l'autorevolezza per guidare un governo e anche in grado di mettere insieme da un lato la sinistra e poi la sinistra con il centro sia effettivamente Bersani. Non credo che abbia le caratteristiche Renzi per quello che ha fatto finora, per l'esperienza, un po' anche per le sue posizioni politiche. Ma perché? Cioè, cosa gli manca? Beh, insomma, oltre al talento, ammesso che ci sia, bisogna anche avere nelle cose un po' di esperienza, insomma, no? Oppure no, un conto è governare la città e un conto è governare il paese, mi sembrano cose francamente diverse. Però voglio dire, tempo nello schieramento progressista, diciamo così, Renzi è spostato molto verso il centro, mentre invece nello schieramento progressista la posizione di Bersani è in grado di tenere insieme tutto lo schieramento che va da Vendola fino alle posizioni più moderate. Non Casini, però, con Casini no. Ma Casini però aveva fatto un'apertura importante, a meno che poi non si cambino i discorsi a seconda delle occasioni. Sì. Casini ha dichiarato di puntare su Monti, però aveva detto anche di avere un accordo con il PD e quindi di riconoscere a Bersani un ruolo, di riconoscere una lealtà, una correttezza. Insomma, aveva lasciato intendere quando è intervenuto proprio, mi sembra, a Reggio Emilia, che l'ipotesi di un accordo con il PD è molto... C'era. È molto ma poi adesso ha fatto questa nuova creatura, Italia, non si... Però lei mi incuriosisce... Non lo vedo male io però questo processo di creare un centro moderato forte. Casomai questo deve suonare, diciamo, anche come monito alla sinistra, no? È bene che si costruiscano forze politiche che tolgono i nomi... I partiti che hanno un nome sono un segno di arretratezza, direi quasi... Ma qualcosa che non sta nell'Europa, sì. Perché non abbiamo solo lo spread economico, ma abbiamo anche quello politico. Però a me incuriosisce una cosa, cioè lei vuole criticare Renzi sul punto di forza che invece Renzi vuol fare, cioè sono giovane e rottamiamo i vecchi, lei dice non ha esperienza. Insomma, come dire, mi pare di fare se è permesso, senza offendere nessuno, nel pieno rispetto di tutte le ambizioni di tutti. Una persona che si candida a guidare il paese ha bisogno di avere un minimo di esperienza di cose di governo, insomma, ecco, questo mi pare che sia il minimo, ha bisogno di conoscere almeno certi funzionamenti, la macchina dello Stato, la politica a Roma. Poi per carità tutto è possibile, ma insomma... Capito, ma così così rimaniamo sempre i soliti, capisci? Cioè il messaggio che vuole lanciare Renzi è: io ho fatto il presidente di provincia, ho fatto il sindaco, sono stato eletto, è stato eletto, e che deve fare? Cioè dovrebbe stare un po' in Parlamento? Io non credo che bisogna restare soliti, io credo che Bersani deve contornarsi di una squadra profondamente rinnovata che dia il senso che ci sono a Roma come nel paese esperienze mature. Però bisogna che siano esperienze mature. Personalmente ritengo che il sindaco avrebbe fatto bene a portare a compimento il suo mandato che ha ricevuto dai cittadini e poi tirare un rigo, vedere se ha fatto bene o se ha fatto male. A proposito, si dovrebbe dimettere, secondo lei? La faccia e vedere quanti voti si prende. Ma dovrebbe dimettersi? Secondo lei dovrebbe dimettersi da sindaco dopo se si candida? Fare il presidente del Consiglio, almeno che non le voglia fare tutte e due, insomma. Quello sì, no, ma il tema è se si candida addirittura alle primarie, già dovrebbe lasciare adesso, parte in camper. Ormai, guardi, mi sembra, diciamo che in linea teorica le cose che lei dice sarebbero queste, ma non mai abbiamo rotto l'argine, insomma, lasciamo fare, ecco, faccia pure, però rischia di essere un po' così una corsa, come dire, un po' a metà, ecco, perché non mi sembra che lo stesso Renzi abbia rivendicato di voler fare il Presidente del Consiglio, segno forse che almeno fino ad oggi una certa punta di consapevolezza magari lo attraversa. Renzi fa una battaglia legittima per il rinnovamento, mette se stesso come, diciamo, il punto di rinnovamento, e questo, diciamo, c'ha molto di personale. Sì. Bersani a questo, mi sembra, deve rispondere, appunto, come le dicevo, costruendosi una squadra nuova intorno, valorizzando esperienze di sicurezza. Magari applicando il limite dei 3 mandati senza deroghe, potrebbe essere. Magari applicando il limite dei 3 mandati, e sarebbe giusto. Sì, tipo Rosi Bindi. Renzi viene dalla Margherita, noi Democratici di Sinistra avevamo il limite di 2 mandati. E non è mai stato applicato. Però. Ma sa che anche la Bindi forse... Siamo dietro questa regola, ma... Anche la Bindi forse fa le primarie. Vabbè, faccia lei, insomma, che bisogna stare attenti a non usare le primarie, diciamo così, per conquistarsi una tribuna, ecco, un pezzetto di un posizionamento, anche perché poi le primarie rischiano sempre comunque di lasciare qualche problema aperto, qualche contrapposizione, qualche divisione. Io credo che noi avremo bisogno di ritrovare una grande unità su un leader sicuro, onesto, diciamo tranquillo, ma allo stesso tempo in grado di promuovere il rinnovamento. Cioè, Bersani, di cambiare il paese. C'è un nome. Che Bersani abbia questo nome e cognome. Per concludere, sa invece dov'è Berlusconi? Non sa. Ma ho letto, sì, in Africa mi sembra di Non faccia il malandrino in Africa. È in Kenya da briatore a fare un po' di relax qualche giorno per ricaricarsi, per scendere, per decidere se scende. Questo fa bene. Per decidere se. Non sarebbe il caso di rottamarlo un po', insomma. Ecco, la cosa buffa di Renzi è che la parola rottamazione l'ha sempre usata verso la dirigenza del Partito Democratico, ma non vuole usarla verso Berlusconi. Qualche volta la usasse verso Berlusconi. Ma no, ma lo dice sempre, dice che a sinistra il suo indice di gradimento potrebbe crescere. Dice che ha sempre 5 anni meno di suo nonno, credo, Berlusconi. Sì, vabbè, ma insomma, anche lì ci sarebbe da cambiare, no? Forse bisognerebbe invitarla a star fuori. Vabbè. Insomma, lei dato al paese. Berlusconi lo vorrebbe stia in Africa, questo no? No, faccio... No, per carità, personalmente non ho nulla contro Berlusconi. Credo che abbia fatto male al paese e abbia fatto male quando ha governato il paese, ma personalmente credo nel rispetto, guardi, veramente. Uno degli aspetti peggiori della politica è questa degenerazione anche del linguaggio. Noi dobbiamo recuperare una politica che sa dialogare. Non si deve mai offendere le persone, altrimenti si rischia che poi la politica, anche i cittadini seguono i cattivi esempi, non va bene. Va bene, buona giornata, grazie al governatore della Toscana Enrico Rossi del Partito Democratico. Noi dopo la pubblicità torniamo a concentrarci su questa polemica interna al Movimento 5 Stelle, il movimento fondato da Beppe Grillo, qualcuno fa sapere, in realtà il burattinaio vero sarebbe Gianroberto Casaleggio. Questa è la polemica generata da un fuori onda di un'intervista del consigliere regionale dell'Emilia Romagna Giovanni Favia, che ha detto Casaleggio è vendicativo, decide tutto lui, insomma non c'è democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle. Questo ha generato un dibattito all'interno dello stesso movimento in rete. Ne parliamo tra poco con Filippo Facci di Libero, con Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, con qualche esponente del Movimento Beppe Grillo e Movimento 5 Stelle, e con voi ovviamente. 800 24 00 24, tra poco. Allora, vogliamo parlare del Movimento 5 Stelle, del tema che è stato suscitato dal dibattito dopo un fuori onda, dopo un'intervista che è andata in onda a Piazza Pulita al consigliere regionale dell'Emilia Romagna Giovanni Favia, che vogliamo sentire in quel fuori onda in cui parlava col giornalista e ha detto questo, no? Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Il problema è su, quindi o si leveranno dai coglioni oppure il movimento loro gli esploderà in mano. Ecco, poi ha aggiunto alcune cose, subito è partito un dibattito, ma come, la democrazia non esiste, detto da uno all'interno del Movimento 5 Stelle in un'intervista rubata, poi è nato il giallo, ma forse non era rubata, lui stava concordando di far passare un messaggio facendo finta di essere intercettato, al che lo stesso, cioè intercettato, intervistato di nascosto, anche lo stesso Favi ha detto, ha postato su Twitter quel "che fai ora Beppe Grillo, mi cacci", evocando la vicenda Fini Berlusconi. Insomma, la rete e il Movimento 5 Stelle all'interno del dibattito è impazzito su questa intervista. Che succede nel Movimento 5 Stelle? C'è democrazia, non c'è democrazia, c'è il guru Casaleggio che detta la linea su tutto? Ne vogliamo parlare con Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Saluto anche Filippo Facci di Libero. Buongiorno, eccoci Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. C'è anche un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Rosta, in provincia di Torino. Si tratta di Dimitri De Vita. Buongiorno De Vita e benvenuto. Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno a lei. Tanto lei da che parte sta in questo dibattito? Cioè Favia ha creato che cosa in lei? Favia non ha creato un bel nulla. Io sto dalla parte del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un consigliere regionale che è stato chiamato al servizio dei cittadini per servirli, così come fanno tutti i consiglieri del movimento. Verosimilmente, anzi senza alcuna ombra di dubbio, quel fuori onda non è un fuori onda. Fabio è un esperto di telecomunicazioni e quindi non si sarebbe mai fatto giocare in questo modo. E ovviamente un'intervista concordata che poggia comunque sul nulla. Beh, questo è un sospettone, perché ovviamente lei usa ovviamente, chiaramente, ma non è un fuori onda. Ma non è un fuori onda, ma si vede subito che non è un fuori onda, non solo per le panzane che sono state dette. Tanto per cominciare, tutto quello che viene deciso nell'ambito del movimento viene fatto secondo quelli che sono i dettami della democrazia diretta. Vale a dire attraverso votazioni sul blog. Il programma stesso viene deciso dai cittadini, che possono tranquillamente iscriversi e fare proposte. Abbiamo il nostro statuto, abbiamo le nostre regole, che sono regole abbastanza trasparenti. Siamo nella più assoluta forma democratica che si possa avere finalmente in questo paese, almeno all'interno di un gruppo politico. Evidentemente l'antidemocratico sotto questo aspetto è proprio il consigliere Favia. Ah, ha detto, vabbè, questa suona un po' di epurazione. Cioè, ma non suona di epurazione, Favia l'ha detta così grossa che non so se anche se valga la pena, ovviamente, da parte di Beppe Grillo, di fargli un mandato di via. Ma questo Casaleggio lei l'ha mai conosciuto, sentito? Sì, certo che l'ho conosciuto. L'ha conosciuto, ci ha parlato anche. Ma sì, assolutamente. Beh, è uno dei pochissimi in Italia, perché io se chiedessi un'intervista a Casaleggio, guardi, abbiamo anche provato, è un no secco, ma questo non parla con nessuno, vabbè. Ma no, ma perché, guardi, Casaleggio offre un servizio al movimento, è un servizio che ci offre su internet, ci prepara le piattaforme, è un professionista che lavora in maniera completamente asettica. Quando abbiamo bisogno di qualcosa e di come organizzarci, noi ci rivolgiamo ad un privato, e in questo caso è Casaleggio. Però l'accusa invece è che sia un vero e proprio burattinaio, cioè tutto quello che pensa, scrive, dice Beppe Grillo in realtà è dettato da lui. Ma nella maniera più assoluta no. Io le posso garantire che da un punto di vista politico tutti i nostri programmi elettorali, la nostra gestione sul territorio di quelli che sono i rapporti con i cittadini, dei quali non siamo intermediari ma semplicemente servitori, questo è un punto fondamentale, avvengono in maniera completamente autonoma. Io lo stesso programma elettorale che presentai alle mie elezioni quando fui candidato come sindaco nel comune di Rosta, il programma venne deciso nell'ambito di una serata di democrazia partecipata da parte dei cittadini. Quindi c'è democrazia nel movimento, secondo lei? Ma nella maniera più assoluta. Va bene, si fermi qui un attimo, intanto ha già messo carne al fuoco. Filippo Facci, vorrei un commento. Adesso si dice non c'è democrazia, almeno questa è l'accusa del Movimento 5 Stelle. Non è che si vuole però così farlo passare come, vedete, anche il Movimento 5 Stelle non è poi così nuovo come invece pensano di poter dire? Sicuramente sì, nel senso che parte di quelli che accusano Grillo di essere poco democratico sono criticabili perché magari dimenticano che, insomma, partiti personali, diciamo così, ci sono sempre stati negli ultimi 20 anni in Italia, la Forza Italia, la Lega, l'Italia dei Valori, appunto, fino a Grillo. Poi, ma tra l'altro, è un fenomeno che in parte è anche europeo. Poi, ecco, se vogliamo parlare di come sia effettivamente Movimento 5 Stelle, io faccio un commento, non mi metto, voglio dire, a discutere col quadro idilliaco sinceramente anche un po' ridicola che abbiamo appena sentito, dove sembra che abbiamo il partito migliore del mondo, quasi un... Cioè, il punto è che cosa c'è che non sapessimo prima, senza fare tante scene. C'è un movimento che non è neanche formalmente un'associazione, non si sa neanche bene dove definirlo. Secondo lo stesso statuto citato, trova origine, epicentro, sede in un blog, anzi neanche in una sottosezione di un blog. L'unico titolare è Grillo. Per contattarlo c'è solo un indirizzo email per chiunque. Sappiamo tutti da una vita che c'è questo personaggio, tutti perlomeno gli addetti ai lavori, Casaleggio, che decide e deciderà le candidature per le prossime politiche. E perché deciderà le candidature? Il consigliere De Vita ci dice che vengono decise in assemblee comunitarie, sì, democratiche. Qualcuno sia, qualcuno no, però insomma è vero quello che diceva Fabio, ma lo si sapeva, si scriveva anche prima che il movimento ha avuto un successo tale così veloce che non ha permesso di regolare, magari in maniera innovativa, come accidenti gli parrà, però insomma in una maniera qualsiasi che non sia quella che nei fatti per ora non c'è completamente, perlomeno per le candidature alle politiche, ripeto, quei meccanismi ordinari, fisiologici e democratici per cui che gli esploda in mano il movimento non lo so, però insomma non si è fatto in tempo e per ora nei fatti le cose le organizza prevalentemente Grillo. Prevalentemente Casaleggio. Grillo in accordo magari con Casaleggio, oppure più che altro c'è un meccanismo anarchico-democratico, mettiamola così, che non abbiamo, ripeto, scoperto oggi. Poi se fosse combinato o no il fuori onda, non lo sapremo mai, ma io siccome conosco i soggetti ho fatto una piccola indagine, all'inizio pensavo di sì, poi mi sono convinto di no, ma tanto che cosa cambia, ha comunque fatto finta di come posso dire, comunque sia le cose che sì, ha detto, anche se ha fatto finta voleva far arrivare un messaggio che evidentemente pensa, ripeto, le cose che ha detto sono al di là di alcune coloriture, sono assolutamente, ma tra l'altro no, su questo io vorrei sapere da Ferruccio Sansa, cioè il rischio, mi pare di capire anche quello che ha detto Filippo Facci, è che quando un movimento dice vogliamo per esempio le persone incensurate senza problemi, cioè con dei paletti molto stringenti e stretti, nel momento in cui è imploso il fenomeno Beppe Grillo, rischiano di portare 100 parlamentari per dire, fare un numero in Parlamento alle prossime elezioni, a questo punto Ferruccio Sansa, non è che bisogna necessariamente avere un controllo centrale che è di per sé stesso poco democratico, altrimenti con questo sistema si rischia che ci siano dentro persone che magari non sono strettamente controllate, non rispondono ai parametri del Movimento 5 Stelle, e però questo va a scapito della democraticità. Ma come dicevate voi, dalle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle potrebbe portare in Parlamento un centinaio di persone, che sono tantissime. Io penso che neanche loro se lo aspettassero. E come sceglierle a questo punto? Cioè c'è il rischio di doverle controllare a uno con la radiografia quasi. Ma il Movimento 5 Stelle rispetto agli altri partiti in effetti si è posto dei paletti diciamo più stringenti, e quindi ci sarà qualcuno che dovrà fare un'analisi, e questo è solo uno di alcuni dei nodi che il Movimento dovrà sciogliere, credo, perché obiettivamente non si aspettavano neanche loro. Io mi è capitato di incontrare per lavoro Beppe Grillo diverse volte, io credo che neanche lui si aspettasse questo successo così rapido e travolgente, e credo che, per dire la verità, all'inizio la cosa lo abbia un pochino che lo spaventi abbastanza, cioè io penso che all'inizio l'abbia più spaventato che esaltato, poi forse lo ha anche esaltato dopo, perché però ecco, io guardate, noto parlando con quelli del Movimento 5 Stelle questo accento fortissimo posto sulla rete, però noto anche loro cominciano a chiedersi se è il modo giusto per selezionarli, perché facciamo degli esempi concreti, la votazione, la scelta dei candidati online basata sui curriculum, mi diceva una persona del Movimento 5 Stelle che loro sono ben consapevoli che facendo così probabilmente i primi candidati, quelli che vinceranno subito, prenderanno migliaia di preferenze, ma ci sarà anche chi rischierà di essere candidato al Parlamento in base a una ventina, trentina, siamo 50 preferenze che potrebbero essere quelle dei nonni e dei cugini, per cui diciamo c'è anche il rischio che si arrivi a candidarsi alle elezioni e a vincere probabilmente, cioè vincere nel collegio, perché poi il Movimento 5 Stelle in questo momento ha moltissime preferenze in base a una manciata di voti su internet. Sono meccanismi che devono essere, che senz'altro presentano molte falle, però è anche, devo dire, può essere vista sia come una delle cose che preoccupano nel Movimento 5 Stelle, come anche un punto di forza. Allora, Grillo e la democrazia, Filippo Facci di Libero, ma se lo vede un Grillo che prende ordini da un casaleggio, cioè è davvero l'idea di un Beppe Grillo che con la democrazia non c'entra nulla? Magari si possono fare altre critiche, il linguaggio, i toni che usa, il fatto che personalizza e demonizza gli avversari con anche la sua verve comica, ma che sia antidemocratico. Ma io che sia antidemocratico ce lo vedo assolutamente, ma voglio dire, non è che mi scandalizza, ripeto, non tanto e solo perché non lo si sapesse, ma perché, ripeto, gli è nato in mano così, e tutti i partiti personali e particolari a un certo punto arrivano a un bivio, anzi a più di uno, che non sanno come affrontare. Non lo so se sia tanto diverso questo. Il Movimento 5 Stelle, ma non per forza per voler omologare, penso, non so, all'Italia dei Valori, che, sì, che pure da una parte si pose il problema della legalità dei candidati, eccetera, eccetera. Poi, però, tanto attento non ci stette, perché fu il partito più infarcito di Voltagabbana e di indagati, soprattutto a livelli locali, che ci fu. Beh, però questa omologazione, non so, sì, Movimento 5 Stelle di, che ne so, di veline, ladri, condannati, sì, indagati, per ora al Movimento 5 Stelle non se ne hanno notizie, ecco. Certo, che bene, infatti non mi stupirebbe se per evitare questo ci fossero dei meccanismi per cui magari c'è un guru, un casaleggio, che secondo me però è il personaggio che è, tutto qui, per me, parentesi, è mezzo matto Casaleggio, però anche questa è un'opinione democratica, e quindi questo potrà non piacere a tutti, i problemi cresceranno perché ci sono dei meccanismi, ripeto, non di omologazione alla partitocrazia, ma di omologazione ai più dinamici e normali movimenti democratici. Mi dispiace dire delle cose banali, ma la realtà lo è, mi sembra, da questo punto di vista. Un'omologazione. Dimitri De Vita, non so se starà saltando sulla sedia l'idea di considerarla omologato in qualche modo. Ma guardi, se posso intervenire, io penso che il Facci, come giornalista, come me, sapeva di questa intervista, di questo incontro, e poteva benissimo informarsi su ciò che il Movimento 5 Stelle, quello che sta facendo, è versare vuoto nel nulla. Perché bastava vedere quella che è la nostra attività, come ci comportiamo, capire benissimo che il nome di Casaleggio è un nome buttato a caso, il consigliere Favia evidentemente, anzi io sono sicuro di questo, cercava solo visibilità, perché probabilmente la doppia candidatura a lui non credo stia bene. È ovvio che se è stato... Cioè il limite ai due mandati, la doppia candidatura. Certo, limite ai due, cioè sta cercando un modo per smarcarsi. Allora, benissimo. Allora, se Favia intende modificare le regole interne al movimento, non dovrebbe fare altro che proporlo a tutti quanti. Questa è una sua opinione, però, cioè che lui si sia mosso così. Cioè, io non vedo altre. Scusi, avere partire da un'affermazione che ha dell'incredibile, che poi da un punto di vista pratico è lontana anni luce da quello che noi pratichiamo sul territorio. Che poi i media ci diano tanta attenzione, solo perché in maniera grossolana un consigliere ha voluto buttare la luce su di lui. Insomma, non è un po' un complotto, è un modo per sparare a zero sul Movimento 5 Stelle. È un modo strumentalizzato per sparare un po'. Favia ha cercato solamente visibilità, verosimilmente lui ha intenzione, credo, ma questa è una mia opinione ovviamente, i due mandati gli stanno stretti, per ora le regole numero 5 Stelle sono queste, e democraticamente, se un domani si dovesse decidere di cambiare queste regole, lo si fa tutto insieme, come sempre è avvenuto. A noi del Movimento 5 Stelle interessa che si parli del nostro programma, balzare al primo posto sulle cronache italiane per queste situazioni non le piace. Non ci piace, perché noi in fin dei conti ci troviamo in una realtà dove addirittura le altre formazioni politiche continuano a proporre un andazzo governativo dello Stato, nel momento in cui con Monti ci troviamo, con un crollo del PIL sì. che supera il 2,5, la benzina a 2 euro, abbiamo una disoccupazione all'11%, una produzione industriale che è scesa di quasi il 9%, quasi 400.000 esodati, lo spread sempre sopra i 400, il debito pubblico con Monti è aumentato e non si viene a parlare del nostro programma. No, ma guardi, ma noi del programma io l'ho presa come promessa, prima o poi ne parleremo del vostro non statuto, diciamo, noi siamo una delle trasmissioni che più parlano del Movimento 5 Stelle, poi lei dice magari lo si fa e si parla, si finisce sui giornali solo per le critiche, ma in realtà ne parleremo del programma. Sentiamo Dino da Verona, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Dino, buongiorno. Salve, mi sentite? Sì, sia sintetico però, gentilmente. Sì, cerco di essere sintetico, sono un po' emozionato la prima volta. Comunque, brevissimo. Allora, due cose per voi giornalisti, perché siete di una banalità pazzesca. No. Lei dice, ma scusi un attimo, se no dopo sono già emozionato. Scusi, sì. Lei dice che loro non hanno ancora rubato, perché loro, ma per rubare ci vogliono i soldi. È già successo con tutti, l'ultima, la Lega, che sembravano... dei santi caduti, ecco, adesso aspettiamo che questi prendano un po' di potere. Ma guardi, e poi siamo da capo, come lei ben sa, sono già sindaci, sono consiglieri regionali in Piemonte. Ne hanno due, uno a Parma che ha i debiti sopra il collo e l'altro... No, ma guardi, si informi, ci sono dei consiglieri regionali in Piemonte, in Emilia Romagna, a Bologna. Mi scusi, per farla breve, guarda, la situazione sarà questa, si prenda pure nota. Questi andranno in Parlamento perché noi, per colpa nostra... con 100 parlamentari, 80 parlamentari, sicché l'Italia diventerà ingovernabile da ambo le parti, questi che non stanno con nessuno, e la nomenclatura, per non farsi prendere per il collo, cosa farà? Manderà il potere un'altra volta a Monti, senza elezioni, che questa è una roba che non sta né in chiaro senza intera, elezioni. Che questo signore continui appena a detto governare che... senza elezioni, vedrà. Appena detto che andranno in Parlamento, quindi ci saranno le elezioni, è un po' confuso, però insomma la sua lettura è questa: andranno in Parlamento in 100, non saremo governabili e dunque bisognerà richiamare Monti. Ecco, l'editoriale politico di Dino da Verona conclude la nostra trasmissione. Mi devo fermare perché ho sforato un po' con Dino. Ringrazio Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Filippo Facci di Libero e ringrazio Dimitri De Vita, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Rosta in provincia di Torino. Seguite tutto su Facebook oppure su Twitter, ci trovate 24 mattino, è il nostro account. Alino Milan sono io. E ci trovate anche da qualche parte, sì, su Facebook, l'ho già detto, e su radio24.it ovviamente riascoltate tutto. Grazie, a domani alle 6:35. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.